Buongiorno, che bello vedervi, è bello essere insieme come famiglia. Siamo qui anche per quel motivo, è vero o no? Sì, proprio perché siamo famiglia. Non c'è tristezza più grande che non avere Gesù nella propria vita. Non c'è povertà più grande che il non avere Gesù nelle proprie situazioni. Perciò quando vedi tristezza, amarezza intorno a te, tu hai Gesù. Tu hai Gesù e sei un dispensatore, un distributore anche automatico di gioia, di allegrezza, di pace, di serenità. Gesù ha scelto te. Ora, ti puoi domandare anche mille volte perché proprio me? Io credo che nemmeno Gesù stesso lo sa. Ti ama e basta. E ha preso te, ha preso tutti quanti noi. Non c'è gioia più grande che avere il Signore dentro di noi. E sapete, proprio la gioia, l'allegrezza, si moltiplica dentro di noi, non semplicemente perché noi abbiamo Gesù, ma perché noi, come Gesù, siamo disposti a dare. E Giovanni 3,16. Dio ha tanto amato, che ha dato. Allora è nel dare il segreto. E il tema di questa mattina qual è? Basta poco. Quindi non stiamo a predicare il fatto che adesso dobbiamo fare i conti in tasca per dare tutto quello che abbiamo. Basta poco. E vedremo questa mattina quel poco che cos'è. Abbiamo sentito della città di Aleppo in Siria. Questi qui, questi credenti cristiani nella chiesa lì, prima sono venuti quelli dell'ISIS e li hanno distrutti. E loro hanno detto, noi non ci muoviamo di qui. Perché? Non perché avevano una casa, era già diroccata. Non perché avevano una chiesa, una sala. No, era già rotta, le bombe. Perché il Signore ci ha chiamati a dare gioia a questa popolazione. E sapete che non c'è un periodo nella storia più grande, più forte che questo, dove tanti musulmani arrivano a conoscere Gesù tramite queste persone. Adesso l'ISIS è stata sconfitta in Aleppo ed è venuto di nuovo il governo che c'era. Ma adesso di nuovo l'ISIS sta cercando di riconquistare. Che cosa succede? Che questi sono sempre in mezzo alle bombe. Sono sempre in mezzo alle bombe e hanno chiesto preghiera. Perché? Perché hanno detto non ce la facciamo più. Non ce la facciamo più. Ma per loro potrebbe essere molto semplice. Come tutti gli altri, andare via. Andare anche in un campo profughi dove non ci sono bombe. Ma loro invece no. Loro sono chiamati lì, si sentono chiamati lì a testimoniare di Gesù e a dare la gioia di Gesù. Perciò ecco perché rimangono. È pazzesco, è inaudito, è fuori da ogni luogo comune, è fuori da ogni logica che loro stanno lì. Perché stare con Gesù è illogico. Stare con Gesù è fuori da ogni norma. Stare con Gesù è fuori da ogni pensiero filosofico, da ogni teologia e da ogni altra cosa. Stare con Gesù è stare fuori di testa. Se sei fuori di testa, stai con Gesù. Va bene, se ti dicono così, sei nel posto giusto. Ma il tutto nasce dalla parola di Dio la Bibbia, quello che è scritto nella Bibbia, a dir poco è strano. Per esempio, in Atti, al capitolo... mi sfugge che capitolo è, dovrebbe essere... Beh, ma lo troviamo. 20, il capitolo 20, vedete quello che è scritto? Sì, il capitolo 20, verso 35. Ascoltate che cosa c'è scritto in questo... Ho portato pure gli occhiali. Perché stranamente più vai avanti più le parole diventano piccole, le stampano sempre più piccole, che pure c'ho la Bibbia grande. Nel verso 35 è scritto: in ogni cosa vi ho mostrato che bisogna... Non voglio leggere solo l'ultima parte. Poi leggiamo quella parte, dice, proprio l'ultima parte del verso 35 dice: vi è più gioia? Vi è più gioia. Come funziona? Vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Cioè, non è strano tutto questo? Ora, che cosa stiamo dicendo? Che noi qui adesso ci dobbiamo organizzare per dare tutto quello che abbiamo? No, vedete di che cosa sta parlando Paolo. Ecco perché lo leggo dopo la parte prima del verso 35. In ogni cosa vi ho fatto vedere, vi ho dato l'esempio, l'ho fatta prima io, dice Paolo, che bisogna venire in aiuto ai deboli, lavorando così. E ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse egli stesso: vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Di che cosa sta parlando il Signore? Del dare, ma darci. Il dare è vedere gli altri. Sapete chi è il più miserabile, il più povero? Non c'è in mezzo a noi. Chi pensa, chi crede, chi vede che nel trattenere possiede di più. È proprio quello, è quello povero, perché vedete, non a caso la parola di Dio dice che l'avaro non entrerà nel regno di Dio. Perché non può entrare nel regno di Dio? Perché ha accumulato tanta roba che non se la può portare dietro. Non entra da quella porticina, non entra, e siccome non la vuole lasciare, rimane là alla porticina. Contento lui? Chi è avaro, chi sperimenta, perché non è l'avarizia delle ricchezze, delle cose, l'avidità, avete mai sentito dai bambini? È mio. E noi che facciamo? Noi lì, tutti bravi, tutti logici a educare. No, vedi che questo è anche della sorellina, perché è di tutti quanti noi. E lui di sana pianta che cosa fa? È mio. O ce n'è l'uomo, o ce n'è l'aria. Va bene? Ma proprio questo poi fa sperimentare, perché anche nel bambino, sì è vero, se lo tiene lui il giocattolo, ma non gioca con nessuno, dopo un poco si è annoiato e lo ha lasciato. Ma così è anche con noi, così è anche con noi. Perciò, vedete, non è così che l'avidità ci fa avere di più, anzi proprio l'avidità è la camera della povertà, dove si sperimenta più povertà. Quindi noi dobbiamo rieducarci e rieducare noi stessi a dare. Ma non pensare che cosa, basta poco, basta veramente poco. Voi sapete che a me piace molto prendere esempio di vita da quelle che sono le storie nella parola di Dio. E mi piace vedere i personaggi, perché lì io trovo il confronto con me stesso e posso addrizzare il tiro e posso dire così farò. così seguirò. E ci sono alcuni esempi nella Bibbia che questa mattina andremo a vedere, però prima vi voglio citare il passo che Gesù ha detto in Luca al capitolo 6 verso 38. Dice, perché questa è la legge biblica, è illogica, è innaturale, è contro ogni pensiero. Date? Cioè, la nostra logica che dice? Se io ricevo, posso dare. E tanti di noi, me compreso, quante volte ho detto: no, Signore, prima la guarigione, se tu mi guarisci, io posso testimoniare che tu sei potente, sei grande. Paolo testimoniava con la malattia addosso. Quante volte diciamo, prima il lavoro e poi ho i pensieri liberi da potermi dedicare per l'opera del Signore. Sappi che c'è sempre qualcosa che verrà prima. C'è sempre qualcosa che verrà prima e non sarà mai il tempo di poter dare a quello che il Signore chiede a noi. Basta poco, il Signore non chiede. Ecco, vediamo una di quelle storie che noi conosciamo ed è quella di Atti degli Apostoli al capitolo 4, praticamente di Pietro e Giovanni. Sappiamo che Gesù era appena risorto, morto e risorto, e loro avevano sperimentato tanta potenza, tanta grazia, tanto amore da parte del Signore, e erano assidui anche, ogni giorno andavano al Tempio. Nel capitolo 4, Atti capitolo 3, scusate, dal verso, possiamo leggere dal verso 1, così sentiamo la storia. Per chi non l'ha mai letta, c'è qualcuno che non ha mai letto la storia di Atti capitolo 3? Meglio che non la alzi la mano. Va bene. Poi ti rifai, va bene? Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera dell'ora nona. Mentre si portava un uomo zoppo fin dalla nascita, che ogni giorno deponevano presso la porta del tempio detta Bella per chiedere l'elemosina a quelli che entravano nel tempio. Vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, gli chiese loro l'elemosina. Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: guardaci. Ed egli li guardava attentamente, aspettando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse: dell'argento e dell'oro io non ne ho. E allora perché ti devo guardare? Ma quello che ho te lo do nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno. Cammina. Preselo per mano. Lo tirarono su e quello incominciò non a camminare, ma a saltare e a gridare e a presentare a ognuno. Quello che ho te lo do. Che cosa aveva Pietro e Giovanni? Non avevano beni, non avevano cose. Avevano sperimentato la gioia, la grazia, la potenza dello Spirito Santo. Quello stavano sperimentando e quello hanno dato: questo ti possiamo dare. E lo hanno dato. Noi molte volte ci preoccupiamo piuttosto dei problemi degli altri, come risolvere, ma se non sappiamo risolvere nemmeno i nostri problemi stessi, ci andiamo a impelagare nei problemi degli altri per trovare la soluzione a come devono fare così, e sappiamo dare i consigli agli altri. E sappiamo dire come devono fare e come non devono fare, però non lo sappiamo dire molte volte a noi stessi. Dai quello che hai, e tu hai il Signore, e tu hai la potenza della preghiera, e tu hai la gioia di avere il Signore nella tua vita. Questo devi offrire, questo il Signore chiede di dare, però parte anche da molto più lontano riguardo a Pietro, perché è vero, quello che ho ti do. Vi ricordate la chiamata di Pietro? Come avvenne la chiamata di Pietro? Che cosa stavano facendo? Uno. Stavano? Non stavano pescando. Stavano rammendando, aggiustando, pulendo le reti, pulendo la barca. Va bene? E Gesù disse, venite con me. Che cosa fecero? Lasciato le reti, la barca e ogni cosa e lo seguirono. Ma avevano veramente lasciato le reti, la barca e ogni cosa per seguire Gesù? Cioè non andavano, è vero, Gesù gli aveva fatto la promessa, vi farò pescatori di uomini, non sapevano nemmeno che cosa significava, cioè tu senti per la prima volta ti faccio pescatori di uomini, ho pescato sempre i pesci, mo devo buttare le reti per pescare gli uomini, cioè si annegano tante persone, non sapevano nemmeno che cosa voleva dire, ma hanno creduto a Gesù. Hanno creduto a Gesù, hanno creduto nella ricchezza di Gesù nella loro vita e hanno lasciato ogni cosa per seguirlo. Ma hanno lasciato veramente? Pietro ha lasciato veramente tutto quello che aveva? No, perché il giorno dopo, anzi il giorno stesso, stava di nuovo a pescare con la barca e con le sue reti. Ma quella barca, vedi, io sempre ho detto a me stesso, tanti stanno cercando ancora oggi il sacro Graal, come si chiama, che è quel calice dove Gesù ha bevuto. Tanti, se andiamo in giro per le chiese qui in Italia, troviamo tanti di quei chiodi che hanno crocifisso Gesù, che possiamo crocifiggere l'intera umanità. Tanti hanno trovato tanti pezzi di legno, che boschi interi ci sono, è incredibile. Io sapete che cosa vorrei cercare? La barca di Pietro. La barca di Pietro, perché è una barca incredibile, sapete? È scritto in Matteo 4 che Gesù, passando dalla riva, vide due barche. E montò su una barca. Di chi era? Di chi era quella barca? Di Pietro. Era di Pietro. Dice, non poteva scegliere l'altra. No, di Pietro. Monta sulla barca di Pietro e incomincia a predicare al popolo. Ma non è che così tu ti metti sulla barca e predichi. No, doveva essere distante. 5-10 metri. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che Pietro doveva stare insieme con i remi. E quello non ha sentito nemmeno una parola di quello che Gesù diceva. Perché? Perché stava a lottare con i remi, uno avanti e uno indietro, per tenere la barca sempre allo stesso posto. È incredibile. E quella barca ha sentito predicare Gesù. Subito dopo, o poco dopo, Gesù dice, andiamo all'altra riva. È sempre quella era la barca. È sempre quella, la tempesta, e Gesù dormiva su quella barca. Però quella barca ha visto pure camminare, ha visto camminare sulle acque Gesù e ha visto camminare pure Pietro, il suo proprietario, quando potrebbe dire quella barca. E possiamo così continuare. Gesù, cioè Pietro, che cosa aveva nelle mani? Una barca e l'ha messa a disposizione. Una semplice barca, ma quanto Gesù ha potuto fare per mezzo di quella barca? Tu dici, io non ho molto, quel poco che hai, se lo metti a disposizione di Gesù, Gesù può fare tanto, tanto, tanto. E qui possiamo benissimo citare e raccontare del ragazzo ragazzo dai 5 pani e 2 pesci, non è il contrario, 5 pani e 2 pesci. Cioè a Giovanni capitolo 6, se andate a leggere, vedete che è scritto che Gesù disse ai suoi discepoli, date da mangiare a questa folla, erano più di 5.000 persone, dice, ma qua ci vogliono almeno più di 200 denari, dove li andiamo a prendere? Ecco, vedi, non abbiamo niente. Poi un discepolo, Andrea dice, però c'è un ragazzo che ha detto che ha 5 pani e 2, perché logicamente non è che Andrea in tutta quella folla poteva sapere che quel ragazzo aveva 5 pani e 2 pesci, è il ragazzo che ha detto io c'ho questo. È incredibile la fede di quel ragazzo. Gesù ha detto poco, quello poco, vedi quello che diventa. È incredibile. E quando è diventato quel, a parte il fatto che ha sfamato tutti, ha sfamato pure lui, quando è diventato quei 5 pani e 2 pesci, sentiamo? A parte che ha sfamato 5.000, quando è diventato? È diventato 12 cesti. È vero? Alla fine Gesù li mandò e dice andate a raccogliere tutto quello che è rimasto. E non vuoi che quel ragazzo non se ne sia andato a casa con un cesto? Che era molto di più di 5 pani e 2 pesci. Ha messo a disposizione molto poco, basta poco. Basta poco, non c'è scusante a dire ma io non ho dono. Noi sentiamo bello qui lodare il Signore, ma che bei doni. Abbiamo visto pure Chicco stamattina per la prima volta, è vero? Dov'è? Eccolo là, per la prima volta. Beh, io non lo sapevo che aveva questo dono canterino, a dire il vero. Però non è così. Non è così che è salito qui sopra e si è messo a cantare. Io li conosco quelli là, Leo, ma vabbè. E Provino, e contro Provino, e prova, e contro prova, e poi devi dimostrare che sei disponibile. Non ti dico gli esami che devono fare. E poi alla fine salgo. C'è tanto sacrificio. Quindi il dono non è avere l'ugola d'oro, il dono è dare, essere disposti a dare quel poco che hai. Hai la disponibilità, non hai nient'altro, quello il Signore può usare per permettere di fare miracoli e grandi cose. Pietro ha fatto il miracolo di dire non ho niente, alzati e cammina. Grazie a che cosa? A quella barca. Grazie a quella barca. Grazie al fatto che ha messo a disposizione quella barca, che era disposto a cedere. E se voi andate a leggere riguardo a quando Gesù gli ha chiesto, è Atti Luca 4, quando gli ha chiesto devo predicare, mettiti un poco a largo, devo raccontare di Dio a tutte le genti. Sapete che cosa c'è scritto dopo? Gesù dice a loro, beh, prendi il largo adesso e andiamo a pescare. Quale fu la risposta di Pietro? Dai che la sappiamo. Che cosa disse Pietro? Abbiamo pescato niente, tutta la notte abbiamo pescato, non abbiamo pescato niente. Quindi quando Gesù è andato sulla sua barca e a Pietro gli potevano le viscere andare sotto sopra, dice mo già non ho pescato niente, mo sto di nuovo rammendando le reti, devo uscire di nuovo perché devo portare il pane a casa e questo mo si mette sulla barca per predicare e mi ruba il tempo e mi ruba ogni cosa che posso fare. Questo poteva essere l'atteggiamento di Pietro. Ma quale fu? No, niente, di stare lì a remare per tenerlo lì. Ed è questo che ha permesso il miracolo di alzati e cammina. Questo è stato che ha permesso il miracolo di alzati e cammina. È stato questo che ha permesso quel poco che ha dato già dall'inizio Pietro ha fatto sì che lui potesse compiere cose grandi per l'opera del Signore. Per mezzo di quello lui ha potuto predicare e annunziare l'Evangelo di Gesù Cristo, e tante persone si sono ravvedute per una sola predicazione. Quando è scritto 3.000, credo circa, no? In una sola volta, più di 3.000, vedete? Non hai niente? E Gesù di quel niente ha bisogno. Non ha bisogno del mio molto, non ha bisogno del mio molto, ma del mio niente che metto a sua disposizione. Ed è quello che fa portare frutto per il regno del Signore. Possiamo fare, io con questi esempi mi confronto perché mi piace vedere sempre io non chiedo tanto che cosa farebbe Gesù, io chiedo sempre a che punto sono io. Questa è la domanda che mi pongo, e ecco perché mi continuo a confrontarmi. La storia più affascinante della Bibbia per me è quella che è scritta in poche parole in Atti capitolo 9 di noi conosciamo, di Tabita. Conosciamo la storia di Tabita, forse non l'andiamo nemmeno a vedere. Questa era una donna che morì. Cioè, iniziamo proprio bene, così è scritto. In Ioppe c'era questa donna che morì. E mo, che si fa? E c'era Pietro lì in un paese vicino e lo andarono a chiamare e dice: vieni, vieni, vieni, perché c'è questa nostra sorella, serva del Signore, che è morta. E perché Pietro andò? Perché era morta, si muore, non è? Ognuno prima o poi deve andare al Signore, no? Ma sapete che cosa hanno fatto per convincere Pietro? Hanno detto: questa donna è una serva del Signore e non fa altro che cucire dalla mattina alla sera tante vesti e le mette a disposizione dell'opera del Signore, dando a chi non ha e facendo del bene ad ognuno. È proprio scritto: e allora Pietro andò, pregò e lei si alzò. Che pensate che abbia fatto dopo questa donna? Ha continuato a cucire. Che cosa aveva fra le mani? Un ago, questo è proprio meno di niente, un ago, non lo so nemmeno se esistevano allora gli aghi, però un ago, e lo ha messo a disposizione del Signore, cucendo delle vesti, semmai vendendole o semmai donandole, e il tutto andava per l'opera del Signore. Allora, vedete, la motivazione della resurrezione di questa donna è incredibile. Non aveva niente, ma ha messo a disposizione quell'ago che aveva nelle mani, e quello ha permesso di far compiere quel grande miracolo della resurrezione. Che cosa hai fra le mani? Io l'ho capito ad Antonio, dice: c'ho mia moglie che l'ha abbracciata. Ma questo non vale, perché tu dici: no, mia moglie deve fare, va bene? Che cos'hai fra le mani? Sapete, è vero, noi abbiamo due mani. In una mano, certamente, abbiamo afferrato Gesù è l'opera sua. In una mano teniamo certamente stretta l'opera del Signore, la grazia di Dio nella nostra vita, perché ce l'abbiamo, siamo qui, quindi noi abbiamo questo stretto in noi, con noi, lo abbiamo afferrato, ce lo abbiamo. Ma la domanda è: che cos'hai nell'altra mano? Che cosa stringi nell'altra mano? E il più delle volte nell'altra mano stringiamo i nostri averi, le nostre attività, la nostra famiglia, i nostri divertimenti e i nostri interessi. E il più delle volte qual è la mano che vince? È la storia del giovane ricco. Beh, quella la conosciamo, no? Del giovane ricco. Andò da Gesù e gli chiese: che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù, molto semplicemente, come anche noi diremmo, non discorsi complicati, disse: ama Dio con tutto il tuo cuore, i tuoi genitori, proprio i comandamenti più semplici. E che cosa rispose il giovane ricco? Lo faccio. E Gesù che cosa fece? È scritto che lo guardò e lo amò. Lo guardò e lo amò. Ma perché il giovane ricco era andato da Gesù? Eppure metteva in pratica tutti i comandamenti. Sentiva che gli mancava qualcosa. Sentiva che gli mancava qualcosa. Ed era quello che voleva sapere da Gesù. E Gesù che cosa gli disse? Vendi tutto. Dallo ai poveri e poi seguimi. E poi seguimi. Non abbiamo più saputo niente di quella storia. Non sappiamo come sia andata a finire. Però questo ci mostra che noi abbiamo due mani e ce l'abbiamo due mani. E vi ricordate? Se noi usiamo un solo remo, che cosa fa la barca? Gira intorno e gira intorno. E quanto giriamo intorno, che la testa ci gira. Cadiamo perché la testa ci gira. Ci rialziamo e che cosa facciamo? Abbiamo due mani. Allora vedi quale stringe più forte. Che cosa stringi più forte nella tua vita, nella mia vita? Questa è la domanda che io ho posto a me, eh? Non è che la pongo perché l'ho posta a me. Che cosa stringo più forte? Quello che il Signore mi chiede di dare? O quelli che sono i miei interessi? Ma sappi che la gioia e la serenità e la pace nel dare e non nello stringere. La gioia, la pace e la serenità è nell'applicare e nel mettere in pratica quello che il Signore ti chiede di dare. E ti chiede poco. Il Signore chiede poco. Lui ha dato tutto, ma a noi il Signore chiede molto, ma molto poco. E noi possiamo anche dire, perché questo io lo sento anche dire, lo dico pure io, però già va bene, il giovane ricco, mica mi vuoi paragonare al giovane ricco, lui era religioso, quindi diceva anche ai comandamenti, li metto in pratica perché metteva in pratica la legge. Ok, va bene. E che pensate di Dema? Conoscete Dema? Non ci ho mai mangiato insieme. Chi era Dema? Chi si ricorda di Dema? Vago ricordo. E che c'è un solo versetto di due parole, in 2 Timoteo. Non ce n'è molto di Dema. Chi era Dema? Vedi quando conosciamo, pastore, quando conosciamo le storie della Bibbia, eh? È venuto da dietro, che cosa? Ah, lo diceva Lucia. E tu sei stata la voce di Lucia. Benissimo, che bello proprio. Vedete, questo è l'esempio più grande di collaborazione. Lucia ha dato e Samuele ha usato. Era uno stretto, strettissimo collaboratore di Paolo. E che cosa ha detto Samuele senza Lucia? Paolo di Dema. Ma vabbè, salviamo, che già fate le figuracce sopra, mona alla preghiera, allora... ha amato, ha stretto più questo mondo che l'opera del Signore e mi ha lasciato, e mi ha lasciato. Questo ha detto Paolo. Se andate a leggere in quel passo, vedete che Paolo aveva tanti collaboratori e aveva Luca, e li mandava a Filippi. È scritto proprio, l'uno è andato, mo che vieni tu a Timoteo, portami il mantello e porta con te anche Luca, mi sembra. Insomma, aveva già mandato via tutti e chiamava altri per collaborare. Quello mi è molto utile nel messaggio, nella propagazione dell'Evangelo. Vedete a che cosa pensava Paolo? Dema era uno stretto collaboratore. Perciò non ti mettere seduto comodo nella tua poltrona solo perché sei collaboratore del pastore, solo perché sei collaboratore della Chiesa, solo perché ti impegni tanto a operare per la Chiesa. Non ti sedere comodo, ma chiediti che cosa ho più stretto e che cosa il Signore mi chiede di dare. Amen? Vogliamo alzarci in piedi e ringraziare il Signore. Se c'è un appello a cui rispondere questa mattina è proprio questo: che cosa ho nelle mie mani e sono disposto a darlo? Sono disposto a metterlo a disposizione del Signore? Signore Gesù, io voglio dirti grazie. Grazie perché la Tua parola è un vento fresco, veramente, in un giorno di calura. È qualcosa di così speciale e stupendo per l'anima nostra, per la vita nostra, oh Gesù. È così bello vedere come Tu operi oltre misura. Signore, voglio ringraziarti che tu operi al di là di quello che noi sappiamo, possiamo fare e possiamo essere. Tu operi guardando agli altri e noi vogliamo seguire te, oh Gesù. Noi vogliamo seguire te e vogliamo mettere a disposizione tua quello che abbiamo affinché ogni cosa possa essere moltiplicata per l'avanzamento del regno tuo. Perciò chiedo per ognuno di noi qui presente questa mattina, Signore Gesù, affida la potenza dello Spirito Santo affinché noi possiamo operare non secondo i doni che abbiamo, non secondo le nostre capacità, ma per quello che tu ci hai già donato. E grazie Gesù. Amen.